A Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Puntata monografica a 2 giorni e qualche ora dalla finale di Madrid. L'ombre del partito, sarà Milito, sarà Robben, sarà Van Gaal piuttosto che Mourinho, ma l'ombre della vigilia, come dicono i madrileni, è indiscutibilmente Alessandro Profumo, amministratore delegato di Unicredit, perché ha il cuore a Milano, nerazzurra, il portafoglio, comunque una discreta parte, a Monaco, ed è soprattutto il main sponsor con Unicredit di una finale che, secondo me, se avesse potuto avrebbe disegnato così fin dall'inizio. Corrisponde, dottor Profumo? Certamente, non potevamo essere più fortunati, visto che abbiamo in finale una squadra nella quale, tra l'altro, il mio presidente è in consiglio di amministrazione, il Bayern di Monaco, che è basata dove noi abbiamo il nostro centro operativo in Germania, e l'altra una squadra italiana dove abbiamo 7 milioni di clienti, quindi non potevamo avere più fortuna. Com'è nata l'idea di sponsorizzare la Champions League? Ma noi abbiamo cambiato il nome delle banche in tutti i paesi in centro est Europa, mettendo Unicredit, anche in Germania e in Austria, dove abbiamo ancora i nomi tedesco e austriaco, ECB e Banca Austria. Comunque abbiamo il nostro logo rosso, la scritta con gli stessi caratteri che abbiamo in Italia, e abbiamo bisogno di farci conoscere in tutti questi paesi. Il calcio è certamente uno dei sistemi che ha più calore per far conoscere il brand di una grande impresa. È il primo anno questo, mi pare sia triennale l'impegno che avete siglato con l'UEFA. Sì, è il primo anno, siamo stati molto contenti di come è andato il primo anno, ne abbiamo altri 2, speriamo che negli altri anni ci siano sempre squadre che comunque mobilitano le passioni dei nostri clienti. Beh, credo che su questo ci si possa contare, poi magari non tutti gli anni sarà Inter-Bayern la finale, magari dopo questa conversazione qualcuno comincerà a fare un 2 più 2 e dirà: ma tutto sommato magari all'Inter è andato una mano col Chelsea, al Bayern gli è andata con la Fiorentina, perché a Unicredit avrebbe fatto piacere sta finale. Sto scherzando, sia ben chiaro. Ma non penso assolutamente che sia così, però diciamo la passione certamente ci toglie un po' di lucidità quando guardiamo queste partite. Alla fine mi sembra che ci siano 2 gran belle squadre in finale, certamente comunque alla fine sarà una grande partita. Risulta, ce l'ha già detto anche lei, che il presidente Rampol sia tifosissimo, oltre che nel consiglio di amministrazione del Bayern. Allora mi domando, voi due vedrete la partita fianco a fianco come fanno i presidenti delle squadre di Spagna, che tra l'altro danno un magnifico messaggio al pubblico, o rischiereste, se foste di fianco, di rompere i rapporti? No, assolutamente, saremo seduti vicini. Vicini, eh? Andiamo insieme. A quando risale la passione per l'Inter? Beh, risale quando all'elementari a Palermo facevamo un piccolo torneo di calcio dentro la scuola, c'erano 4 squadre, 4 maglie: Milan, Juventus, Palermo e Inter. Io giocavo con la maglia dell'Inter, e da lì è iniziata questa passione. Non c'era stato, magari prima, visto che lei è un genovese di voltaggio, cioè dell'entroterra, e mi pare che sia una zona in cui non è facile non nascere genoano. No, il grifone è la seconda passione. Padre era un grande tifoso del Genoa, c'erano tutta una serie di cose scaramantiche quando andavamo a Genova al weekend, perché sosteneva che se andavamo in certi posti il Genoa non vinceva, quindi era uno spettacolo. Senta, a proposito di questo, visto che siamo sul tifo, domanda classica per un cuore nerazzurro: se proprio è scritto che si debba perdere una partita, è meglio col Milan o con la Juventus? Meglio col Milan. Stadio, la bicicletta, mi pare di aver visto delle fotografie sue in bicicletta diretto verso San Siro, gli sfottò. Che tifoso è? Che genere di tifoso è Alessandro Profumo? Sono un tifoso irrazionale, nel senso che lascio sfogare tutte le passioni, mi piace, sono 3 ore, compresa appunto la bicicletta da andare a tornare, in cui riesco a essere in un mondo diverso, immerso in mezzo alla gente, è molto bello. Senta, io penso che se l'Inter avesse perso lo scudetto dalla Roma, l'interista che avrebbe sofferto di più sarebbe stato lei, e ho usato il verbo soffrire per richiamare, come dire, le sofferenze di Italpetroli Roma nei confronti di Unicredit. Ma perdere contro la Roma comunque sarebbe stato forse meglio che perdere contro con altri. Alla fine è stata una squadra che ha fatto un grandissimo campionato con dei giocatori, mi sembra molti riscattati di fatto a prezzo zero, con un allenatore che era stato mandato via da un'altra grande squadra. Credo che questo sia il bello del calcio, appunto, che non necessariamente è basato tutto sui soldi disponibili, ma è basato anche sulla capacità di motivare, di trascinare, anche di avere dietro una grande tifoseria. A proposito di motivare, le chiedo una risposta da amministratore delegato. Cioè, quando un manager se ne vuole andare, forse ad ogni costo, ma è ancora sotto contratto, cosa le verrebbe in mente per trattenerlo? In altre parole, ha un consiglio per Moratti versus Mourinho? Penso fargli incontrare tanta gente italiana, visto che Mourinho continua a sostenere che non si trova bene in Italia, che lo apprezzano, pensano che abbia fatto delle grandi cose e che ritengono che, insomma, anche in Italia si possa stare bene. Qual è il giocatore dell'Inter che più la fa schizzare dal seggiolino di San Siro? Ma ho due grandi passioni. Una si chiama Xavier Zanetti, che secondo me è prima un uomo e poi un giocatore grandissimo, e l'altro è Milito. Quale di questi due, secondo lei, oppure chi deciderà la finale? Ma sarebbe bello che la decidessero insieme, con un passaggio come quello che Xavier ha fatto a Siena. E poi penso che Tho, un altro grande giocatore, fosse stato un po' più in ombra rispetto a Milito, però credo che anche lui sarà fondamentale, perché è un giocatore che fa il terzino e poi fa la punta, insomma. Certo. C'è una generosità incredibile. Spero che tutti insieme riescano a farci sognare. Immagino che il presidente Rampol non sarà esattamente lo stesso avviso. E lui spererà che Robbins faccia uno dei suoi gol da fuori. Insomma, ovviamente avremo speranze diverse per quelle due ore. Dopodiché, lo dico in modo non enfatico, dal nostro punto di vista comunque vinciamo, quindi è una bella cosa. È stato un piacere, dottor Profumo, grazie. Grazie mille a lei, arrivederci. Ad aver giocato tutte e quattro le finali dell'Inter di Coppa Campioni dal 64 al 72. Il terzo si chiamava Giacinto Facchetti, gli altri due sono Tarcisio Burnic e Sandro Mazzola. Andrei in ordine di formazione, di ruolo, e comincerei dal più forte stopper esterno, a parer mio, della storia del calcio italiano. Benvenuto a Tarcisio Burnic. Grazie, buongiorno. Buongiorno. Dunque, ho detto stopper esterno perché qui c'è un problema serio, ma molto serio a parer mio. Se tu oggi clicchi su Google, su internet, è una cosa che fai o te la risparmi? No, non lo faccio. Non lo fai, non farlo, Tarcisio, non farlo, e ti spiego subito perché. Perché la vecchia storica filastrocca Sarti, Burnic, Facchetti, eccetera, eccetera, diventa tutta un'altra cosa. Tu clicchi, trovi il tabellino della finale del Prater a Vienna del 27 maggio 64 e leggi Inter 1-3-3-3, e la formazione diventa Sarti, Picchi, Burnic, Guarnieri, Facchetti, Tagnin, Suarez, Corso, Jair, Mazzola, Milani. E allora io trovo subito che questa sia una profanazione, eh? Cosa dici? No, probabilmente sono una dimenticanza da parte di loro. Sì, però insomma. Non è che cambia molto. No, io, certo. No. La realtà è mia e di quei tifosi che hanno vissuto quel periodo da Inter, perciò non... No, cioè, mi fa né caldo né freddo, ecco. Meno male, a me invece fa un po' l'effetto di sentire il coro del Nabucco o il brindisi di Traviata a ritmo di rap, no? Cioè, mi sembra proprio uno stravolgimento musicale prima ancora che tecnico. Senti, Tarcisio, quattro finali in otto anni, due vinte, due perse, ricordi belli e ricordi inevitabilmente brutti. Quali sono i più nitidi che hai, che conservi? Il più bello è che il primo contro i nostri... Noi si giocava con le figurine del Real Madrid, no? Si andava alla ricerca. Cioè, i nostri idoli siamo riusciti a batterli. Questa poi era la prima, ecco, questo io ricordo quando mi viene in mente il Coppa dei Campioni, Vienna, non c'è altri paragoni, ecco. Senti, dalla tua parte giocava Gento, se non sbaglio. Sì, sì. Gento. Quindi tu ti sei marcato l'ala più, a parte forte, a parte Goleador, ma l'ala più veloce dell'epoca, sì. È uno dei più veloci di tutti i tempi. Lo so, perché mi buttava la palla avanti e lui girava di fuori. Ma riuscivo, quella sera lì ero proprio, stavo bene, mi è riuscito anche a frenare le sue iniziative. Senti, poi l'anno dopo questo trionfo contro il Real di Stefano Puskas Gento, e non finiva solo lì, aveste la fortuna di giocare in casa la finale, c'era stato il sorteggio, per cui a San Siro Inter Benfica 1-0 con un gol di Jair sotto un diluvio universale in una... Ecco, questo forse ha inciso molto, perché la partita l'abbiamo condotta noi, sì. Però la palla non andava avanti, era piena di pozzanghere, conseguenza era difficile ottenere un risultato così superiore a quello che è stato l'1-0. Poi tra l'altro anche il portiere l'è passato, insomma, tra le gambe. Certo, no, fu una discreta papera di Costa Pereira dovuta a quel terreno impossibile, altro che a Quitrino, era San Siro, era una piscina. Sai che avendole riviste tutte e due queste finali su ESPN, questo canale storico di Sky che ridà queste vecchie grandi partite, le ho riviste recentemente e dopo tanti anni la sensazione che ho avuto è che abbiate fatto meno fatica in realtà a battere il Real Madrid l'anno prima che non il Benfica quella sera. Giocando in casa c'avevamo una grossa responsabilità, certo. Cioè te dovevi vincere a tutti i costi, e questo è il male forse un po' degli italiani, no? Quando affrontano una squadra più debole, sì. Che sono dalla stampa dice ormai questa è squadra da battere, è una formalità, ci creiamo addosso i problemi, certo. Se affrontiamo il Brasile no. Perché pensi, dice, ma sì, tanto bello, se perdi col Brasile, perdi col Brasile, insomma. Si ma sente? Se perdi con la Corea è dura. Io mi ricordo il povero Fabio, diceva, ragazzi, se perdiamo questi dobbiamo andare nel Ghana tutti. E purtroppo abbiamo perso. E purtroppo è andata così. No, era una partita che io sono entrato perché non ho giocato quella partita perché ero infortunato. Sono andato nello spogliatoio, sembrava un cimitero e si giocava contro la Corea. Capito? Cioè le tensioni a volte il giocatore si prepara prima, no? Perché la stampa carica, no? Dice che la Corea, quel che sia, e il giocatore in quel momento avrà difficoltà ad affrontarla perché le tensioni sono maggiori. Bene, senti, di quelle due finali perse, io ho dei ricordi insomma da quindicenne o da ventenne, fu abbastanza incredibile quella persa con il Celtic nel 67, sì. Fu quasi scontata quella di 5 anni dopo con l'Ajax. Dunque, col Celtic noi purtroppo mancava Suarez, che era l'uomo coordinatore. Noi quando siamo andati in vantaggio, perché siamo andati in vantaggio, sì. La partita per noi era finita. Certo. Invece noi non avevamo quell'uomo che gestiva la palla a centrocampo con Mazzola, anche febbricitanze, e abbiamo perso. Oltretutto siamo stati col mago 4 giorni isolati in un albergo, c'eravamo solo noi. Tant'è vero che il povero Picchi e i cicli, sì. Abbiamo preso prima la partita i crampi allo stomaco. Cioè io venne le docce e rimettevano perché i crampi allo stomaco, sì. Poi il mago disse ci ha dato il pollo avariato, sono balle. Era la tensione, star lì 4 giorni a pensare solo alla partita. E siamo andati in campo già in condizioni, cioè non al 100% ma al 60%, certo. Cioè bisogna guardare queste cose qui, se noi dobbiamo vedere anche prima le grandi partite noi le abbiamo fatte dove c'era in albergo, c'era la gente, sì. Perché ci si levava quel senso di pensare a questa gara, no, che poi perdi le energie, cioè. Beh, questa è una chiave di lettura che non ricordavo comunque a distanza di così tanti anni. E con l'Ajax invece come andò? Invece in Olanda abbiamo tenuto la partita, però dopo 5 minuti hanno fatto fuori Giubertoni. È vero. Giubertoni, Kroll. Gli ha pensato la caviglia, cioè si giocava già con un uomo di marcatura che doveva essere sul Cruyff, così, cioè loro erano forti, erano in decadenza già, però loro erano forti, superiori, e noi come squadra, sì. No? Se io credo che se passava il Borussia li metteva sotto tranquillamente, e noi abbiamo perso quel 7-2 con la Latina. San Siro abbiamo vinto un 4-2, poi a Berlino, se non c'era San il portiere Bordon, beccavamo 4-5 gol. Sicuro. È stata la squadra, ecco perché nei Coppe dei Campioni a volte non vince la migliore, e basta una partita storta, un giocatore che non c'è, una squalifica, o una, due, tre che non ci sono, perdi la partita. Certo. Senti, in che cosa questa Inter di oggi è simile alla vostra e in che cosa è invece diversa? Così a occhio. Ma io credo che il simile sia nel gruppo. Sì. Se noi considera che noi siamo stati 5-6 anni tutti insieme, sempre in ritiro, perché sai, si andava al venerdì mattina e si tornava lunedì mattina, poi quando c'era la Coppa si partiva il martedì mattina e si andava fino a giovedì mattina, poi il venerdì mattina fino a lunedì mattina, ma è successo uno screzio, che sai, quando sei certo. In gruppo così, meno male, qualche volta può succedere, no? Anche in partite o in allenamenti, no? Invece non è mai successo nulla, e Dio che questo sia le qualità, ecco, che avevamo noi e che hanno questi, e che hanno, che hanno dimostrato, a parte il fatto di Balotelli che tutti ci sono andati per cercare di portarlo dentro, sì. Però si è visto le due o tre partite che hanno fatto, anche se erano anche inferiori magari tecnicamente, ci ha messo l'anima tutto, vedere un attaccante tornare indietro a difendere, insomma, è bello perché si vede proprio l'unione del gruppo. Certo, è una spia di un lavoro di gruppo molto profondo. Certo. Vince, anche se ci sono, non sono dei grandi giocatori, ma quando c'è il gruppo vai lontano. Vai lontano. Io concluderei, Tarcisio, con un consiglio per sabato ai tuoi eredi, in questo senso. C'è una raccomandazione che ti viene in mente da fare a questi tuoi discendenti lontani? Ma io credo che, siccome la partita è talmente importante, loro devono immischiarsi in mezzo alla gente, non pensare alla partita. Perché te quando vai a letto sei solo, già pensi alla partita. Certo. Se poi sei solo in albergo, tra di voi, tra di loro, che sono della partita, arrivano in campo che sono al 70%. Surmenage si chiamava una volta, no? Cioè vai oltre con la tensione della vigilia. Ma io ho provato quando inizio, ero ragazzo, che in prime partite mi prendeva male allo stomaco, ma volevo fare, ma non ce la facevo. Certo. Cioè, e questo può succedere anche ai grandi, no? Quando affrontano una grande partita. Ecco, devono essere spensierati, cioè non pensare alla gara in questo momento. Guarda, l'Inter a Madrid da ieri vorrà dire che se ne andranno un pochino a spasso, dando retta al tuo consiglio e non stando soltanto isolati nel loro ritmo. Pensavo che rimanevano a Milano. Lo so, se non era per la nube era questo il progetto. Infatti Mourinho è rimasto molto contrariato, ma non ha avuto scelta. Vabbè. Tarcisio, io ti ringrazio molto e ti rimetto sul piedistallo di allora, perché sai come si fa, con i monumenti si fa così. Grazie. Grazie Tarcisio, ciao. Ancora, presto. Ciao. I due soli giocatori viventi, dicevo prima, a Tarcisio Burnic, ad averle disputate tutte e quattro. Uno era per l'appunto Tarci Roccia, come la chiamavano allora, l'altro è Sandro Mazzola. Buongiorno Sandro. Sì, buongiorno. Allora, 27 maggio 64 la prima, 31 maggio 72 l'ultima, quattro finali giocate, tre gol, due nella prima contro il Real, uno nella terza contro il Celtic, che sembrava aver già risolto la partita e che invece poi andò in un'altra maniera. A distanza di tutti questi anni, che spazio hanno dentro di te rispettivamente le gioie e i rimpianti? Ma ti dirò, i rimpianti pochi, perché quando non ce la fai ci sono sempre dei motivi, e poi probabilmente le gioie, quando ne hai abbastanza o ti sembrano abbastanza, sovrastano gli impianti, secondo me, perché gli impianti sono meno e forse capisci dopo un po' che hai fatto certi errori, hai perso in questo caso delle partite perché le hai perse. C'è il suo perché sempre, insomma, no? Più passa il tempo e più si delineano, insomma. Noi specialmente quella col Celtic eravamo convinti di averla già vinta prima di andare in campo, anche se ci mancavano due pedine importanti, perché guarda, la stupidaggine fu, noi ci allenammo sul campo della partita prima di loro, poi arrivarono loro, noi l'allenamento come quelli di Area, tutto tensione, tutto, e loro erano in campo in 30, anche i vecchi giocatori che non giocavano più, era una festa per loro, e noi ci siamo messi un po' a ridere, ma dobbiamo giocare contro questi qua, dove madornale, non devi mai snobbare l'avversario, di fatto pagammo. Certo, tanto meno se non puoi, a maggior ragione se non puoi disporre di uno che si chiamava Luisito Suarez, se non sbaglio, no? Che era il grande assente di quella finale. Luis era il nostro capo in campo, intanto era quello che aveva più esperienza, aveva fatto le coppe, era l'esempio. Certo. Noi giovani, io, il Facco e Burni, così lo guardavamo negli allenamenti per capire il perché, ci insegnò tantissimo, cioè fu il primo giocatore in quel periodo in Italia ad allenarsi a lunedì dopo le partite della domenica, che allora il lunedì era festa, certo. Perché il mercoledì c'era la Coppa, io un giorno gli ho detto, ma Luis, cosa fai? Non hai capito, se ti alleni lunedì mattina, martedì riprendi che stai molto meglio. Io cominciai anch'io, però era lui, era il nostro faro. Era avanti Luis, non a caso. Senti, mi ha raccontato prima Burnis che tu hai un po' di febbre quel giorno del Celtic? Sì. Quindi hai anche giocato in condizioni non ottimali, insomma. Però sarebbe una scusa, perché certo noi partimmo bene. Sì, e poi gol tuo all'undicesimo. Con il rigore, eravamo convinti che era finita la partita, un caldo incredibile, invece loro cominciarono a correre come dei matti, li vedevamo passare e non sapevamo cosa fare. Giusto il contrario di quello che era successo 3 anni prima al Prater, quando era toccato incredibilmente per l'epoca al Real Madrid vedere sfrecciare voi senza sapere bene come intercettarvi. Beh, lì fu, sai, per la mia generazione incontrare il Real era il sogno, perché allora se non c'era un'italiana la Coppa dei Campioni vedevi solo la finale e noi vedevamo sempre il Real. Certo. Camisetta blanca, ecco. Di Stefano che era dappertutto, salvava sulla linea di porta, poi andava a fare gol. E io mi ricordo che nel sottopassaggio del Prater lo guardavo e mi sembrava alto 2 metri, bello, grande. Tant'è che a un certo punto Suarez mi picchiò la mano sulla spalla e mi disse: noi andiamo a fare la finale, tu stai a guardare Alfredo. insomma, però il carisma, anche la venerazione in qualche caso si giustifica, e come. Quel giorno l'Europa scoprì Mazzola, per carità, l'Europa, ripeto, perché l'Italia l'aveva già scoperta, ma insomma aveva 22 anni e quella doppietta al grande Real Madrid, credo che segnò la tua consacrazione definitiva, no? Sì, penso di sì, ma soprattutto, sai, la cosa più bella fu a fine partita, cioè quando fino al terzo gol, noi già, io feci il primo gol, io non esultavo molto, alzavo il pugno e lì feci 2 pirolette, per me la partita era finita, l'ho fatto con la Real Madrid, sempre il vecchio Luis che viene lì, oh cosa fai? Guarda che questi qui adesso ci fanno 2 gol se noi festeggiamo, e di fatti mi rimisi in pista, no? Poi di fatti andammo sul 2-0, poi 2-1, e quando feci il terzo capì che era finita, anche perché tornando a centrocampo vidi la faccia di Puskas, di Stefano, che avevano capito che era finito un ciclo, perché loro ne avevano vinto 4 o 5 di fila. Quello per me fu, poi io cercavo Di Stefano per farmi dare la sua maglietta e mi venne incontro Puskas e mi disse: ragazzo, se io ho giocato contro tuo padre, sei degno di lui, e mi dette la sua maglia. Per me quella è la maglia più importante della mia collezione. Lo credo bene. Stiamo parlando di Capitan Valentino e sentire queste cose dette a suo figlio, a sua volta Capitan Sandro, credo che qualche brividino lo possa dare. Senti, scusa la banalità, perché questi confronti Herrera-Mourinho secondo me sono persino un po' irrispettosi, nel senso che è cambiata un'epoca, è cambiato un mondo, ma davvero si somigliano per quello che hai capito tu di Mourinho? Ma guarda, io l'ho detto dopo poco che Mourinho era qui, 2 cose. Uno, il sistema di allenamento. che ha riportato molto pallone Mourinho in campo. Cioè più palla e meno, e meno contorno, insomma. E meno contorno, ecco, bravo. E poi una cosa che diceva sempre il mago, e che lui fa, prima ti alleno la testa, poi ti alleno le gambe. Difatti, allenando la testa ha costruito un gruppo. Quindi ci sono delle affinità, poi con sistemi diversi, mondo diverso, sicuramente tutto. E poi me lo ricorda anche con la stampa. Mago è stato il primo a arrivare qui, sì. Quando era il momento attaccava, faceva, e lui è un po' così anche lui, Mourinho. Certo. Ho visto che in un'intervista all'ANSA 2 giorni fa hai ricordato che il mago usava la lavagna e si imbestialiva perché Picchi gli faceva sparire il gesso. Sì, era fortissimo perché lui era molto preso da spiegarci le cose, no? Questa sua lavagnona metallica, e cominciava, prima metteva gli avversari e poi metteva i nostri, e a un certo punto si accorgeva che mancava una pedina. Allora non diceva niente, guardava Picchi, faceva finta di niente, faceva tutta la tattica e poi all'ultimo diceva, e poi qui ne manca uno che l'ho perso, non voleva dare la soddisfazione che era stato fregato da un suo giocatore. Certo. Senti un po', i giochini della vigilia, questo è un classico, uno di oggi, un giocatore dell'Inter di oggi, di dopodomani sera, che vi sarebbe servito allora? Sai, è difficile dirlo perché noi siamo un po' innamorati di tutti quelli che eravate allora. Che eravamo allora. Beh, però il principe secondo me... Beh, ecco, forse il centravanti, a parte che poi magari nelle coppe giocava Peiro, sì. Non era male, però no, ecco, forse il centravanti potremmo prenderlo. Potreste anche fare sto sacrificio, tutto sommato, no? Io pensavo anche magari a tenervi in panchina, ammesso che allora ci fossero i cambi, tenersi magari un pazzo come Balotelli in panchina, no? In quella squadra così razionale, tutto sommato. Beh sì, sai, quelli che sanno giocare, che inventano calcio, farebbero sempre comodo, quindi certo. Sicuramente ci stava, poi il mago te lo catechizzava, come mi sembra fa Mourinho, te lo preparava pian pianino e te lo metteva al momento opportuno. Te lo serviva caldo, quando era ora di metterlo in tavola. Senti, facciamo il contrario, facciamo uno di allora che verrebbe buono sabato, secondo te, tenendo conto anche delle caratteristiche del Bayern, esclusi i presenti oppure inclusi i presenti? Io dico Suarez. Tu dici Suarez. Era il comandante. Beh, io ne metterei due. Picchi e Suarez. Comandante della difesa e Suarez il comandante del centrocampo e dell'attacco. Che erano i veri due leader, no? Che tu hai sempre riconosciuto come tali nella prima grande Inter, perché sì, poi sì. Ci fu un'evoluzione, ci furono i Mazzoli, i Facchetti, eccetera, eccetera. Senti, no, ma erano loro. Erano loro comunque. Così a naso, da fuori, a 48 ore data, tu vedi la tensione giusta o hai paura magari che ci sia un pizzico di sicurezza di troppo? Non lo so, domando. Non mi pare ci sia troppa sicurezza. Mi pare che ci sia la tensione giusta, ma con Mourinho non potresti averla, te la sistema subito. La cresta te la abbassa, sì. Di sicuro. No, lo dico perché se, per carità, ci sono, voi avete battuto Real Madrid e il Benfica in due finali, avete perso da Celtic e Ajax, quindi una sorpresa, una che ci stava, perché l'Ajax di quel momento era una grande squadra, no? Mi sembra di ricordare. Beh sì, allora l'Ajax era l'inizio della grande Olanda. Del grande ciclo, quindi. Cioè. Del ciclo, quindi lì c'era poco da fare. No, lo dico anche, poi la interpreti come vuoi, magari anche con un pizzico di scaramanzia, ma lo dico perché una finale secca con i tedeschi, indipendentemente dal loro valore, sto pensando all'Hamburgo con la Juve, sto pensando anche al Borussia Dortmund con la Juve, non è mai un avversario comodo, no? Indipendentemente dal fatto che siano grandi o meno. No, sono d'accordo, cioè se noi guardiamo le due formazioni ipotetiche, l'Inter è superiore, certo. Non si discute come qualità, come tutto, però il fatto che questi sono, è una squadra tedesca e quindi, vabbè, con noi italiani di solito perdono loro, sì. Però gli italiani non ce ne sono tanti, sì. Però comunque credo che sarà molto molto dura, sarebbe... Il pronostico è più facile, sì. Poi all'atto della partita creeranno molti problemi. Commendatore, la ringrazio. È stato un piacere. Grazie a Sandro Mazzola. Buongiorno. Sembra ieri. 20 maggio 1989. A nemmeno 17 anni, Zinedine Zidane debutta nella prima divisione francese con la maglia del Cannes, che è impegnato in casa del Nantes. Il giovane Zizou, schierato addirittura come terzino sinistro, esordisce tra i professionisti sfidando Didier Deschamps e Marcel Desailly, futuri compagni di successi con la maglia della nazionale francese. La gara finisce 1-1 e Zidane incassa i complimenti del tecnico Jean Fernandez, che a partire dal campionato successivo lo inserirà gradualmente tra i titolari. Il viaggio è partito da un, come ricorderete, da un tifoso illustre, un tifoso interista illustre come Alessandro Profumo, termina con uno non meno illustre che è Michele Serra. Buongiorno Michele. Buongiorno Gigi. Buongiorno caro. Dunque, senti, partirei da una nota che ho letto stamane sui giornali che arriva dall'Humanitas, dalla clinica di Milano, che ricorda come per occasioni di questo genere sia il caso innanzitutto riguardarsi dall'infarto cardiaco. Mi è sembrata un tantinello allarmistica, ho pensato per un attimo di essere immerso nella lettura settimanale della tua satira preventiva sull'Espresso, ma poi invece ho letto dei numeri che mi hanno anche in un certo senso spaventato. In particolare nell'area di Monaco di Baviera hanno fatto una ricerca e hanno scoperto che gli sbalzi all'insù dei casi di problemi cardiaci anche gravi si moltiplicano nei giorni di partite ad alta tensione. Vorrei che tu calmassi le popolazioni nerazzurre. Guarda, io posso solo dire che dopo Barcellona e Inter non ho più paura di niente, essendo sopravvissuto a quella partita, conto di sopravvivere quasi a tutto. Sì. E certo che quello che mi colpisce è che con gli anni, sì, che dovrebbero portare saggezza, non diminuisce lo stress calcistico, cioè mi agito forse più di quando ero ragazzo, e questo un po' mi preoccupa, perché uno conta di colpe di staccarsi, soprattutto negli anni delle sconfitte, diciamo, delle delusioni. Sì. Uno dice, piano piano mi formerò una scorza, no? Una autotutela, e quindi riuscirò a distaccarmi un pochino da questa stupida, perché poi in fondo è una stupida passione, se vogliamo essere distaccati e oggettivi. Sì, se è vissuta. Se non è ben vissuta, indubbiamente un po' stupidina diventa, anche se è eccessiva, ma come tutti gli eccessi. Sai cosa potresti fare? Dato che mi risulta che in vita tua tu hai smesso un buon numero di volte di fumare, no? Ed è ovvio che quando si smette un buon numero di volte significa che potresti magari, non so, legare a un altro tentativo serio questa finale magari. E guarda, credo di non riuscirci, è peggio che smettere di fumare. È una specie di ricatto dell'inconscio, non so come dire, ma insomma è qualcosa che ti sbuca fuori contro la ragione, perché a volte, soprattutto poi essendo tifosi, insomma il calcio italiano negli ultimi anni non è che ci ha dato molte occasioni di orgoglio, non è più un gioco, un ambiente al quale uno guarda con tenerezza, con simpatia, con fiducia. Diciamo la verità, personalmente per esempio allo stadio andavo molto spesso da giovane, adesso ci vado pochissimo, cioè quest'anno sono andato a vedere due partite di Champions col Chelsea e con i russi, col CSKA, ma perché degli amici mi hanno detto andiamo, se no personalmente dagli stadi mi tengo abbastanza alla larga. È proprio un conflitto tra ragione e istinto, nel senso che la ragione mi suggerirebbe di prendere un po' le distanze, insomma di passare ad altre passioni, e l'istinto alla fine è vincente, perché evidentemente è una cosa che ha a che fare con l'infanzia profonda, io penso questo, cioè per me il calcio alla fine è quello, è una specie di ostinazione a rimanere bambino e quindi ragionevole. Forse è un bene che sia così, non lo so, ecco, cioè non lo metto più neanche in discussione, capisci? Cerco a volte, magari quando mi chiedono da Repubblica un articolo, diciamo da interista, ecco, lì cerco di marcare visita, dico guarda giornalisti, tifosi ce n'è già troppi, diciamo. Senti, però l'Inter in questo caso ti aiuta a tornare bambino, perché insomma le grandi vittorie dell'Inter risalgono per uno del 54 come te, tanto non siamo tre signore che l'età non si dice, vuol dire tornare all'infanzia, o poco più dell'infanzia, no? Per l'emozione che vivrai sabato. Sì, questo senza ombra di dubbio. Tra l'altro mi è capitato La vita poi è strana, di tornare a vivere a Milano, nel centro di Milano, dopo 30 anni, insomma, sono andato via a 20 anni dal centro di Milano, tornarci proprio mentre tornano le quelle sensazioni lì dell'infanzia, quindi le coppe dei campioni, i cortei. Le partite viste in casa degli amici, con i padri dei miei amici che pur avendo 50 anni si comportavano malissimo perché strillavano esattamente come adesso, quindi avrei dovuto già allora capire, vedendo noi figli, noi ragazzini più composti dei padri, avrei già dovuto capire che il tifo è una malattia che peggiora sempre, no? che con gli anni non migliora e anzi degenera. Ecco, quindi per me sì, certo, c'è una circolarità, diciamo, della vita in questo momento, cioè, mi sento di nuovo dentro quella piccola scatola magica lì, e quindi mi ricordo ma non nitidamente, perché poi i ricordi sfumano, ma abbastanza nitidamente di quelle finali, di quelle, mi ricordo moltissimo, per esempio, non so perché, Vasa Center a Budapest, sì, per il famoso gol di Mazzola, partita che ricordo di aver visto in casa del mio amico Paolo Tanara, insomma, ecco, queste cose, questi ricordi precisissimi, remotissimi ormai, ahimè, perché parliamo di, di 45 anni fa. 45-46 anni fa, sì, certo, le finali vittoriose sono quelle. È quasi mezzo secolo, certo. Ma ecco. È un'era geologica. Sì, è un'era geologica, purtroppo è anche un'era biologica, perché insomma, tra quel bambino lì che aveva deciso di essere interista a 5 anni, appena arrivato a Milano, vedendo mi scodellarono davanti dei bambini, insomma, due figurine, una di Jerry Hitchens, mediocre centravanti di Inter e poi Torino, mediocre centravanti dell'Inter, e un'altra di Dino Sani, grandissimo campione, come ben sappiamo, formidabile regista, centrocampista del Milan. E io scelsi, come fanno i bambini, senza indugio, guardandomi ovviamente solo sul colore della maglia, scelsi questa qui nera azzurra e diventai interista per colpa di Jerry Hitchens. Quindi diciamo che avessi scelto Dino Sani, sarebbe in parte cambiata la mia vita. Non c'è dubbio. Una scelta tecnicamente più confacente, ma insomma è andata così. Grazie Michele. Grazie a voi. E buona finale. Ciao. Grazie, ciao. Grazie Michele Serra, grazie a tutti voi che ci avete seguito, grazie a Franco Piantanini in redazione, a tutti i tecnici che si sono alternati nella conduzione, nella regia di questo speciale. Appuntamento regolarmente a domani.